Bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Inizio con un pochino di ritardo, ma inizio, è già qualcosa, visto la settimana scorsa neanche ho iniziato, ma ero in trasferta e quindi impossibilitato a essere ai microfoni della amatissima Radio Wombat. Questa sera in realtà facciamo una puntata di recupero. Siccome avevo iniziato a leggervi tutti i seminari di ACMeeting e volevo fare 5 alla volta, in realtà siamo arrivati talmente sotto che ACMeeting è alla fine di questa settimana, quindi non faccio più in tempo a leggervi 5 alla volta, ve li leggo però tutti assieme. Però la cosa di buono, anche se sembra, ma ci stai fregando, in realtà è meglio per voi, perché così ve li dico già nell'ordine, nell'orario semidefinitivo in cui saranno, così sapete anche addirittura cos'è un giorno, cos'è un altro, se dovete scegliere quando venire, scegliete le cose che vi piacciono di più. Io vi consiglio di venire tutti i giorni. Io in realtà faccio appunto predico bene, razzolo male, in realtà io vado solo di sabato. Scherzo subito. Ma non perché non sia meritevole venerdì, anzi, è solo che di nuovo sono impossibilitato. Vivo una vita di impossibilità. Così. E allora partiamo anzitutto con le date, questa volta me le ricordo, sono facili perché ho il programma davanti. L'ACMeeting inizia venerdì 6 luglio con il pranzo. Quindi iniziamo dalle ore 13. Se volete essere già a Genova presso il centro sociale Buridda, all'ora di pranzo vi danno da mangiare. Sappiatelo. Puntualissimi perché il pranzo è puntualissimamente alle 13 e finisce esattamente alle 14:30. Vi viene tolto il piatto e via. Dovete alzarvi e andare a fare l'assemblea, perché l'ACMeeting inizia con un'assemblea tecnico-logistica organizzativa plenaria della giornata, perché essendo un evento autogestito, se non si inizia con l'assemblea, poi è un caos perché nessuno sa che cosa succede dopo. E può funzionare anche così, però abbiamo visto che funziona meglio se si dedica una mezz'oretta a organizzare la giornata, tipo chi pulisce i bagni, chi cucina e queste cose qui, perché vi toccano tutte, non è che pensate che venite lì solo a divertirvi. Cioè è divertentissimo anche pulire i bagni, per carità. Però insomma, cioè, vi tocca l'assemblea tecnico-logistica organizzativa. Se siete puntuali e arrivate alle 3, è subito quello. Si inizia poi addirittura un'ora di assemblea tecnico-logistica organizzativa. Non è vero che dalle 15 alle 15:30, ma è dalle 15 alle 16, quindi un'ora intera. Chissà come ci si organizzerà bene. Alle 16 si inizia subito, i seminari sono divisi su 3 sale, la sala A, la sala B e la sala C. Di solito hanno dei nomi più belli, ma vengono trovati lì per lì. Per ora si chiamano ancora sala A, sala B e sala C. Alle 16 in sala A ci sarà Ecchio Sport, perché pagare per andare in palestra? Non lo so. Trattasi di una discussione sullo sport popolare e presentazione delle realtà che lo fanno in Italia. E questo è quanto, forse è anche legato al fatto che c'è appunto un incontro di palestre popolari sempre a Genova presso il CSA Pinelli, praticamente nello stesso weekend. Non penso che sia il venerdì, ma sicuramente è il sabato. Ve lo do così come cosa per sfoggio di cultura sulla programmazione genovese, anche se qua stiamo a Firenze, però io le so le cose e le dico. Sempre nella stessa fascia oraria, sempre alle 16, c'è nell'aula AB il seminario Onestà sul voto elettronico. Onestà sul voto elettronico è in realtà un seminario con un abstract abbastanza lunghetto, ve lo leggo tutto, un seminario penso abbastanza interessante. In Italia il voto elettronico è vicino, punto esclamativo. Wow. Movimento 5 Stelle e Lega lo imposero nel referendum lombardo usando macchine venezuelane. Il ministro Fraccaro, Democrazia Diretta, lo ha sostenuto nello Statuto di Roma e il referendum sul TPL viene ritardato. Non so bene cosa voglia dire questo, non ho seguito niente di tutte queste cose, non so che cosa sia. Questo entusiasmo però non trova riscontro nell'utilità. Eppure ideologia soluzionista. È un obiettivo del Movimento 5 Stelle per sostenere strumenti come Rousseau, che questo lo so che cos'è, è la piattaforma per il voto elettronico che usa il Movimento 5 Stelle. La loro propaganda nasconde la situazione internazionale, confonde voto elettronico e petizioni. Le democrazie avanzate lo abbandonano. In Germania è incostituzionale. In Svizzera un audit parla di una falla nella protezione del segreto del voto e viene bloccato. Brasile e India lo usano per motivi logistici non senza critiche. Gli esempi sarebbero Venezuela e Congo, dove si registrano devastazioni democratiche e guerre civili, o l'Estonia, dove, oltre ai problemi tecnici, il voto online ha creato concrete discriminazioni etniche e censuarie. Per Perciò in Norvegia è stato abolito. Ah, poi c'è la blockchain a impacchettare la cioccolata. E quindi di questo si parlerà. Sembra un seminario piuttosto interessante, così se anche vi sentite sempre parlare della blockchain e non avete ancora capito che cos'è, qualcuno ve la spiega. Io forse avevo tentato di spiegarlo, ma penso di aver rinunciato, e quindi è meglio se ve la fate spiegare da questo seminario su ACMeeting. Il venerdì, sempre alle 16, siamo arrivati alla stanza C, e c'è un seminario dal titolo GDPR, una prospettiva critica sulla regolamentazione del cyberspazio. Vi leggo l'abstract: prospettive accademiche sull'economia politica della sorveglianza, discussione sui temi affrontati dal GDPR, consenso, right to be forgotten and right to data portability, profiling e automated decision making. Madonna, quante cose in inglese da dire. Conclusione: GDPR, una legittimazione per l'economia politica della sorveglianza? Punto interrogativo. E anche questo sembra un seminario interessante, e non vi potete dividere, dovrete scegliere per forza di cose, così ACMeeting, così è anche la vita d'altra parte, è fatta di scelte, scegli un po' qua, un po' di là, è così. E alle 18 in aula A, quindi vi abbiamo letto tutto il programma delle cose che iniziavano alle 16, ora vi leggo quelle che iniziano all'incirca alle 18, poi in realtà è un gran paciocco ancora il nostro programma, perché ogni tanto le cose saltano delle ore, è un po' ancora macchia di leopardo, ma appunto si lascia spazio perché si infilino quelli dell'ultimo minuto, quindi il programma per intero lo sapete solo quando entrate il venerdì, per il venerdì. Quello del sabato probabilmente si sa solo il sabato, funziona un po' così. Però è già buono che quest'anno la maggior parte delle cose sono prese, quindi già ci sa un'idea abbastanza chiara di quello che ci sarà. Alle 18 in aula A, Gentrop, un generatore di rumore bianco digitale. Di questo non vi dico niente perché sono abbastanza sicuro di averlo già letto la volta scorsa, e quindi passo direttamente a quello in aula B, per una questione di, altrimenti alcuni poi si lamentano che sono li ho letti due volte, e quelli che li ho letti una volta sola perché poverini, e quindi tutti una volta sola perché siamo severi ma giusti. In aula B, sempre alle ore 18 del venerdì, esperimenti di archeologia videoludica, il caso Petit Computer. Anche questo ha un abstract veramente lunghissimo, ora mi perito a leggervelo, poi finiamo gli appuntamenti, diciamo, di questa fascia oraria, e magari ci sentiamo un pochino di musica, perché questo abstract vi siederà l'entusiasmo. No, è interessantissimo in realtà, penso sia un seminario molto ganzo, però effettivamente c'è scritto un sacco di roba. Si potrebbe pensare che in ambito digitale la preservazione sia più facile che mai, ma spesso non si tiene conto di tutto quel materiale che, più o meno silenziosamente, scompare senza lasciare traccia, diventando così, a seconda dei casi, irreperibile o inutilizzabile. È effettivamente un bel problema. Il mondo del videogioco è esemplare in questo. A fronte di un'infinità di produzioni pubblicate anno per anno, giorno dopo giorno, una mole difficilmente quantificabile di materiale tende a scomparire dai radar per le ragioni più disparate. Vuoi per quella che potremmo definire obsolescenza programmata, vuoi per tutti quegli strumenti, leggi, tecnologie DRM, ovvero Digital Rights Management, che a prima vista si ergono come paladini in difesa degli interessi degli sviluppatori, ma che a ben guardare impediscono una corretta e completa preservazione delle opere in un'ottica futura, e parliamo di un futuro nemmeno troppo lontano. Nello specifico, in questa sede, vorremmo proporre il viaggio che ci ha portato a sperimentare un primo tentativo di preservazione di uno strumento particolarmente interessante. Si tratta di Petit Computer, seconda versione del dialetto BASIC sviluppato dalla giapponese Smile Boom e proposto su Nintendo DSi, nonché divenuto quasi inaccessibile da qualche anno, perché rimosso dagli store ufficiali. Questa perdita ha come diretta conseguenza la scomparsa dei vari titoli realizzati con Petit Computer, normalmente fruibili solo attraverso l'applicazione stessa. Cercheremo dunque di esporre i nostri scavi archeologici, condotti pur sempre attraverso l'applicazione stessa, Cercheremo dunque di esporre i nostri scavi archeologici condotti pur sempre in modo amatoriale e non strettamente tecnico, andando a toccare argomenti come l'emulazione e la simulazione, senza dimenticare qualche riflessione sul concetto stesso di preservazione. Molto bello questo, molto forte, e poi si passa dal gioco, capito? Ma per parlare poi di cose molto molto molto serie. Ora facciamo un salto, perché questo dura un'ora sola, e quindi vi dico pure cosa c'è alle 19 in aula B a questo punto, anche se non si sa bene se rimarrà così, perché io ricordo bene di aver visto un messaggio in lista in cui si chiedeva che questa cosa venisse messa al sabato, quindi può darsi che in settimana questo che vi sto leggendo papam, finisce poi al sabato. Presentazione di Datacrazia, che se è tale è venerdì alle 19, ma non è detto che sia tale. La diffusione sempre più pervasiva delle tecnologie digitali e l'aumento esponenziale delle capacità di calcolo stanno radicalmente trasformando la società, dalla politica alla ricerca scientifica, dai rapporti sociali alle forme di lavoro, il mondo in modo tutt'altro che trasparente. Pochissimi gruppi privati hanno la possibilità di determinare processi su scala globale, traendo enormi profitti dalle informazioni che ognuno di noi produce ogni giorno. Gli algoritmi, spesso descritti come strumenti neutrali e oggettivi, giudicano medici, ristoranti, insegnanti e studenti, concedono o negano prestiti, valutano lavoratori, influenzano gli elettori, monitorano la nostra salute. Datacrazia indaga, con spirito multidisciplinare e critico, i rischi e le potenzialità delle nuove tecnologie, provando a immaginare un futuro all'altezza delle nostre aspettative. E tant'è. E questo era... venerdì 19, alle 19 in aula B. Ora un attimo che devo tornare su, c'ho lo scroll del mouse che è molto più lento di quanto vorrei. Siamo arrivati quindi a quasi all'ora di cena, la cena è precisamente alle ore 8, e alle ore 19 in aula C c'è un buco tra le 18 e le 19 che penso verrà poi riempito nel tempo. Ci abbiamo... consulenze CTP, consulenze tecniche, uno studio sugli algoritmi di cell reselection. Anche questo, attenzione, ve l'avevo letto l'altra volta e quindi salta, ve lo dovete andare a riguardare e a risentire nell'altra puntata. Ora, pure questo, a un certo punto delle discussioni su dove posizionare i seminari era finito il sabato, ora è tornato il venerdì, quindi non si sa se poi anche questo a un certo punto scappa via e finisce il sabato. Però per ora è venerdì alle 19 in aula C. Ora vi lascio a un pochino di musica e poi andiamo ad affrontare cosa ci sarà il sabato sera, il venerdì sera, scusate, e si tratta in realtà di meno seminari, quindi ci potremo dedicare un pochino più di tempo. Se vi stavate chiedendo che cosa vi faccio ascoltare, vi sto facendo ascoltare i Naked City, che erano una jazz band, diciamo con inflessioni varie, cioè avrete riconosciuto del rock and roll, del grind, del country, dello swing, dell'ambient, di tutto un po'. Era una delle tante formazioni in cui suonava il sax John Zorn, più tanti altri bravissimi musicisti che io non ricordo per mia profonda ignoranza, me ne scuso con essi che sicuramente non ci staranno ascoltando, quindi chi se ne frega. E quindi continuiamo con la nostra carrellata su ciò che troverete all'EC Meeting di quest'anno, che vi ricordo sarà il 6-7-8 luglio a Genova presso il Centro Sociale Buridda. Eravamo arrivati all'ora di cena, vi annuncio ufficialmente che la cena è dalle 20 alle 21.30 precise, anche qui arrivate precisi perché poi alle 21.30 spariscono tutti i piatti e vi costringiamo ad alzarvi e dovete scegliere tra le molteplici attività che abbiamo in serbo per voi. In aula A alle 21.30 inizia presentazione dell'instance mastodont.bida.im. Cito dall'abstract, presentiamo il nodo mastodont.bida.im, un nodo mastodon del Fediverso. Ora io dovrei sapere cos'è il Fediverso se fossi una persona che si prepara, e non ne ho la più pallida idea invece perché non mi sono preparato. Comunque speriamo si capisca andando avanti. L'istanza che abbiamo creato è un social network autogestito, bomba, e quindi il Fediverso è un social network autogestito. No, e sarà una cosa con cui si fanno i social network. Ecco, presenteremo la nostra proposta autogestionaria, analizzeremo le motivazioni, il protocollo, le istanze attualmente presenti, la presenza dei compagni nel Fediverso, questa deve essere una roba in dialetto. È una roba in dialetto, è chiaramente una roba in qualche dialetto di centro Italia, credo. Le occasioni in cui Mastodon si è rivelato uno strumento contro leggi repressive, come trasformare feed RSS in ottimi bot ricercabili, i plugin di WordPress. E diciamo che l'abstract non era scritto esattamente in italiano, evidentemente qui c'è del tecnicismo, perché di solito chi non sa scrivere in italiano ma parla di cose tecniche è un tecnicone, si vede chiaramente. In breve, comunque, il succo del nostro lavoro è riassumibile nel manifesto, e qua vi do il link, che però diciamo faccio meglio poi a rimandarvi al sito di ACMeeting, ve lo guardate, io ve lo leggo, tanto non ve lo ricordate. mastodon.bida.im/about/more. E questo è quanto sostanzialmente. Se volete sapere di più, guardatevelo sul sito, che questo era difficile da leggere. Io poi non so neanche di cosa sto parlando, che non so niente di cose social, come si capisce per chi mi ha rivolto la parola almeno una volta. Nell'aula B, alla stessa ora, sempre perché siate costretti a scegliere dove andare, c'è dalle onde corte alle email, passando per le canne da pesca. È bomba questo. Allora, per hobby mi occupo di radioascolto, precisamente Milcom, telecomunicazioni militari, e di analisi di segnale. Tramite appunto l'analisi del segnale in aria e la sua scomposizione fra i vari layer di protocolli usati, è possibile risalire alle email eventualmente trasmesse in chiaro via radio, email over HF, per lo più messaggi informali. Se viene usato un particolare protocollo, tale STANAG 5066, è anche possibile mappare la rete in aria, l'HF network. La canna da pesca c'entra perché è una particolare quanto rudimentale performante antenna. Difficile spiegare tutto in poche righe, se vi va qualche esempio lo trovate sul mio blog, ma i blog in realtà lo potete trovare soltanto se andate a vedervi il post su ACMeeting, se no io ve lo provo a leggere, tanto anche questo ve lo dimenticate subito. I 56578-svl.blogspot.it, e vi consiglio di andarvelo a vedere perché secondo me questa roba è bomba. E se siete fortunelli e riuscite ad arrivare quindi venerdì anche per cena, dopo cena vi potrete fregiare di aver partecipato almeno a uno di questi due seminari. Aula C rimane vuota per ora, però in aula B, appena terminati questi due, con una buona mezz'ora di probabile ritardo accumulato, iniziano i 10 minutes speech corner, che sarebbe una delle parti più buffe di ACMeeting, dove non sai quello che vai a trovare, ma comunque dura solo 10 minuti, quindi anche se fa schifo chi se ne frega, e normalmente invece sono cose fighissime peraltro. E si tratta insomma di avere circa 10 minuti, che poi sono variabili, per esporre una propria idea, un proprio studio, un proprio trip, una propria paranoia, però appunto in poco tempo, quindi non è un seminario lungo, ma di solito qualcosa che si svolge in brevissimo tempo. E non ha un orario di fine questa cosa, anche se è segnato un paio d'ore, in realtà va avanti a oltranza finché c'è qualcuno che c'ha da dire qualcosa e prende la parola per i propri 10 minutini. E così siamo arrivati alla fine di venerdì. Vi ho letto praticamente tutto quello che c'è ad ACM Meeting il venerdì per ora. Mancano ancora un po' di giorni, quindi è probabile che magari qualcosina cambi e qualcosina si aggiunga. E vi consiglio appunto di guardare il sito prima di partire per quel di Genova, così almeno per sapere dove cioè che cosa andate a vedere. E se no, se vi fidate, fate bene. Io ad esempio vado anche così sulla fiducia, infatti ve lo sto leggendo apposta, perché se no non saprei assolutamente che cos'è. Invece così colgo l'occasione, anche per lo leggo a voi, lo studio, lo so anch'io così. Vi faccio ascoltare ancora un pochino di musichina, se così si può dire. Mi rendo conto sia a tratti anche disturbante, ma sono un po' fatti vostri, cioè nel senso, comunque è estate, vi devo dare la sveglia, se no state tutti a morire lì sul divano a farvi pungere dalle zanzare. E poi torniamo e ci spariamo tutto sabato 7 luglio, che è molto più pregno di venerdì per ora, e quindi ci metteremo un pochino di più. Rieccoci di nuovo qua. Mi dispiace quasi tirarvi giù John Zorn, però vi tocca, perché il sabato è lunghetto. Allora, si inizia alle ore 11 del mattino in sala A. Ci sarà autodifesa digitale parte prima. Trattasi di installazione di una macchina con un pensiero all'autodifesa digitale, accesso fisico, cifratura del disco, password manager, uso corretto delle periferiche, rimuovere i metadati indesiderati con MAT. È un programma, ve lo dico, non è uno che viene lì che si chiama MAT e via rimuove i dati indesiderati. Anonimizzare foto video con Obscuracam, che è un altro programma. Questo è quanto troverete in autodifesa digitale parte prima. Teoricamente ci sarebbe, non ancora ben delineato, ma una specie di percorso di base nei seminari che vi ho letto. Autodigitale parte prima fa parte di questo percorso di base, cioè affinché anche chi magari si sente un po' sperso in questo mondo sappia che ci sono alcuni seminari pensati appunto per una conoscenza non approfondita e troppo nerd delle cose di cui stiamo discutendo. Quest'anno è un po' confuso il percorso di base, se devo dire la verità, nel senso che non si capisce ancora quali siano precisamente le cose, a parte questo autodifesa digitale 1 e un altro seminario che ho visto passare in lista su Arduino, che però poi non figura nel programma, non so per quale motivo, però nei prossimi giorni confido che la questione si chiarisca e quindi magari già da mercoledì addirittura ci sarà il programma più o meno completo, riguardatelo, speriamo. Nella sala B, sempre alle 11, inizia a costruire una calcolatrice coi bicchieri d'acqua. Anche questo sono abbastanza sicuro di averlo già letto l'altra volta, è comunque un seminarietto di mezz'ora, al quale segue linguistica DIY, strumenti per la traduzione assistita. Anche questo penso di averlo letto la volta scorsa, però no, forse no, quindi ve lo rileggo, questo sono sbagliato, pazienza, questo lo leggiamo due volte. Omega T è uno strumento di traduzione assistita che unisce le nostre due caratteristiche preferite, è open source e permette la collaborazione tra diversi utenti. Se gli articoli per il tuo blog di ricamo li traduci con carta e penna e i comunicati del tuo collettivo sono affidati a Google Traduttore, questo è il talk che fa per te. In soli 30 minuti vedremo come avviare un progetto di traduzione collaborativa, come usare un software di traduzione assistita e come crearsi la propria memoria di traduzione da usare per progetti futuri. A seguire, per chi vuole, esercizi di traduzione con il software. Eccolo lì, se vanno incastrato vi fanno anche tradurre e lavorare anche ad Hack Meeting. Pensavate, appunto, dicevo, che venivate a divertirvi e invece zac, c'è subito l'incastro. Così. E in sala C invece c'è un seminario mistico, veramente mistico, bello secondo me. Vi propongo di discutere un piccolo esercizio di geometria costruttiva, una cosa che si fa con squadra e compasso, che è pure un piccolo esercizio di fisica, ma tranqui. Dovete conoscere solo le nuove definizioni di metro e secondo, di metro e secondo sono due definizioni, scusate, ed avere, e secondo nel senso che si intende il tempo, ecco, ora ho capito, ed avere esperienza dell'effetto Doppler, anche solo quello acustico, la sirena dell'ambulanza. Quindi fino qua più o meno ci si sta tutti. Il punto è che l'esercizio porta a fare un disegno che è esattamente il diagramma spazio-tempo che si otterrebbe della relatività ristretta, con tanto di coordinate deformate a puntino, perché sono le unità a deformarsi, fortissimo. Cioè io devo assolutamente riuscire, anche se arrivo il sabato, a costo di partire alle 5 del mattino, devo riuscire a arrivare per vedermi questo seminario, di cui non vi ho neanche detto il titolo. Si intitola Special Relativity Without Clocks or Metal Sticks. Bellissimo. E se siete interessati e se siete abbastanza svegli, io non lo so perché mi alzo alle 5 del mattino, però ci sta alle 11, cioè, sarò bello pimpante forse, mi contesterete come ho fatto a disegnare l'asse X. La risposta, se la capirete o ci arriverete da soli, vi sveglierà del tutto sull'argomento, specie se l'avete sfiorato e vi è rimasto qualche dubbio. Quindi attenzione, appunto, se capite perché l'asse X è stata disegnata in quella maniera, vi si aprirà probabilmente un chakra, un terzo occhio, e avrete un'illuminazione subitanea sull'argomento e potrete dire di aver compreso a fondo la relatività ristretta, che è comunque già un obiettivo della vita. Cioè uno poi arriva e dice ho capito la relatività ristretta, io sarei già contento se fosse così anche nella mia magra esistenza. E arriviamo alle 12:30, dove tutti si interrompono perché c'è di nuovo l'assemblea tecnico-logistico-organizzativa plenaria della giornata, perché non basta una al venerdì, ma ce ne vuole una anche il sabato, altrimenti il sabato è di nuovo un caos. Alle ore 13, se siete stati bravi, cioè se l'assemblea è andata bene, si mangia di nuovo fino alle 14:30. Alle 14:30 poi riprende il pomeriggio, ma prima un altro po' di musichina e poi vi dico anche il pomeriggio. Se sono le 14:30, saranno le 15? No, sono le 14:30. Senti che casino che fanno questi. Sarete contenti appunto di che sono tornato ai microfoni e non vi ho abbandonati ai Naked City. Siamo arrivati a sabato 7 luglio alle ore 15 presso il centro sociale Buridda di Genova. Siamo all'Hack Meeting e continuo a leggervi che cosa accadrà in quei luoghi. Allora, alle ore 15, aula A, Zerroom, una VM portatile per funzioni crittografiche. Zerroom è una nuova macchina virtuale molto piccola e molto portabile per disegnare ed eseguire operazioni crittografiche basate su curve ellittiche in un ambiente protetto. La Zerroom VM non ha dipendenze esterne, è più piccola di 2 MB e può girare in meno di 64K di memoria. È pronta per uso sperimentale alfa ed è distribuita pronta per girare su varie piattaforme, desktop, embedded, mobile, cloud e dentro ai browser, WebAssembly. Forte questo, WebAssembly, capito, vuol dire dentro ai browser. Fortissimo. E questo è quanto in aula A alle ore 15. In aula B, invece, riprogrammare i giornalisti, trucchi ed exploit. Per avere a che fare coi giornalisti bisogna conoscerne il linguaggio e gli schemi di funzionamento. Solo così si può forzare il sistema a fare ciò che non era previsto. Il seminario sarà un'oretta di chiacchiere sulla filiera delle notizie. Agenzia, giornali, TV, siti. Da dove nascono le notizie? Comunicati, telefonate interessate, conferenze stampa, eccetera, eccetera. Le ruffianerie dei giornalisti, i loro vincoli e le loro ingenuità. E le nostre. Politica e cronaca, il flusso del tempo e il flusso dei soldi, i due cicli dentro i quali bisogna saper surfare per far passare i propri contenuti, malizie, linguaggio, numeri e immagini, una guida pratica insomma per chi vuole risparmiare tempo, incazzature e ottenere un po' di più dai giornali. E questo era in aula B alle ore 15, ma attenzione, ci abbiamo anche un seminario in aula C. In aula C abbiamo l'inconscio dentro l'internet, il rapporto tra psiche e tecnologia da Ballard alle reti socievoli. Guardare la tecnologia da un'altra angolazione, leggerci l'ombra del mondo tra l'inner space di Ballard, l'occhio meccanico di Virilio e l'inconscio collettivo di Jung, chiacchierata con Letizia Oddo, autrice di L'inconscio fra reale e virtuale, dopo Jung, visioni della comunicazione informatica. Era il titolo del libro, L'incontro fra reale e virtuale, dopo Jung, visioni della comunicazione informatica. Se non ne sapete niente di tutto ciò, cioè se non sapete chi era Jung, potete venire uguale, è una personcina a modo, e senz'altro ne uscirete anche qui illuminati. Se poi al mattino siete riusciti, capito, a capire la relatività ristretta e al pomeriggio venite anche illuminati sulle visioni della comunicazione informatica, praticamente ha già neanche trascorsa mezza giornata e la vostra vita è cambiata da così a così. Proseguiamo con i seminari, abbiamo esaurito tutta una fila. Il problema qual è? Che in aula C di sabato ci stanno un sacco di seminarietti, capito? Cioè, nel senso che questi durano solo un'ora e sono tanti uno dietro l'altro. Quindi io tendenzialmente, vabbè, passo a leggervi di nuovo dall'aula A e poi però facciamo un richiamino. Ve ne leggo due di quelli che sono in aula C. Alle ore 16.30 in aula A abbiamo Object Recognition, come compromettere la robustezza di sistemi di sicurezza basati su IA, che sarebbe intelligenza artificiale, però scrivi AI e Artificial Intelligence, IA invece è all'italiana, intelligenza artificiale, ecco. Faremo un'introduzione al machine learning, alle reti e allora perché la chiamiamo machine learning e non facciamo un'introduzione a come impara la macchina? Ecco. Alle reti neurali e a tecniche di apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale dedicati all'elaborazione di immagini. Poi si passa ad una panoramica sui punti deboli degli algoritmi di object recognition. Concludiamo con una dimostrazione pratica di una tecnica per alterare il contenuto di immagini in maniera impercettibile ad occhio umano, rendendone impossibile il riconoscimento degli oggetti presenti al suo interno a reti neurali addestrate a tale scopo. Tiè, ha ha ha, vedi? E ti freghiamo la macchina così. E questo era in aula A alle ore 16.30. Sempre alla stessa ora, ma in aula B, abbiamo sistemi operativi alternativi per cellulare. Vi ricordate quanto era bello installare Linux su un nuovo portatile e smanettare per far funzionare tutto? Bene, di questi tempi, dove tanto in voga sono gli smartphone, cosa facciamo noi? Ci annoiamo. No? No, no. Ci lasciamo andare concedendo i nostri dati alle multinazionali di turno? Ma già mai. O rifiutiamo questo tipo di tecnologia? Boh. Possiamo continuare a divertirci smanettando invece. In questo talk vedremo la storia dei sistemi operativi alternativi per cellulare. Si passa da iOS, Android e compagnia. E come si sta muovendo il mondo in merito. Quindi sono le alternative ad iOS, Android e compagnia. Da Firefox OS di Mozilla, Ubuntu Touch di Canonical, fino ai progetti Allium, Plasma Mobile, Ubuntu Touch, UbiPorts delle varie comunità e al promettente LibreM5, mi sto già tutto eccitando. Alla fine di questa panoramica vedremo come iniziare per utilizzare lo smartphone in modo più smart dello smartphone. Forte. E questo era in aula B alle ore 16:30. Attenzione, allora vi ho detto facciamo un salto un attimino all'indietro perché andiamo alle ore 16. Alle ore 16 in aula C iniziava Zapruder, Hack the System. Presentazione del numero di Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale, intitolato Hack the System, dedicato ad hacking e media attivismo. E questo era in aula C alle ore 4. Ma subito dopo c'è anche la presentazione di Stop al Panico, presentazione del libro Stop al Panico, a cura dell'Associazione di Mutuo Soccorso per il Diritto di Espressione. Polizie e tribunali, istituzioni selettive e discrezionali, poste da un ordinamento a garanzia di se stesso, per natura inclini a essere piegate a fare del dissenso un crimine. Una ricognizione ragionata nelle trame del processo penale, pensata per chi prende parte a manifestazioni di piazza e movimenti dal basso. Nuova edizione aggiornata alle ultime novità legislative con approfondimenti inediti sull'autotutela digitale, in collaborazione con HackMeeting, che è quello che dove siete, fortissimo, e sul ruolo delle tecnologie biometriche e genetiche. Quindi si tratta della presentazione di questo manuale sulla, diciamo, può essere vista come un appendice legale dell'autodifesa digitale, anzi diciamo l'autodifesa digitale è un appendice di questo discorso, quindi vi consiglierei, se siete interessati a queste tematiche anche appunto a seguire una specie di percorso base, può avere estremamente senso seguire autodifesa digitale al mattino e poi presenziare alla presentazione di Stop al panico, mi viene così. E poi siamo arrivati, già si è fatta sera praticamente, alle ore 18, ve l'ho detto che questo era più lungo perché sabato è bello pieno, alle ore 18 inizia in aula A CryptoCose. Esistono delle primitive crittografiche alle quali non avete pensato ma che potrebbero migliorare la privacy delle vostre infrastrutture autogestite? Speriamo. Questo intervento sarà diviso in due parti. Durante la prima parte farò una bella carrellata di primitive crittografiche differenti dai sistemi di cifratura tradizionali. Ad esempio, credenziali anonime, multiparty computation, zero knowledge proof, ring signatures. Cercherò di dare un'idea dell'utilità di queste primitive, presentando protocolli semplici e fornendo dei casi d'uso classici. Durante la seconda parte, mi piacerebbe invece trovare insieme degli esempi di utilizzo più vicini alla vostra vita. Idealmente mi piacerebbe capire se è possibile migliorare il modello di rischio della vostra infrastruttura autogestita. Più esempi nel thread. Questo in realtà non avrei dovuto leggervelo perché mi è venuto in mente mentre lo leggevo e una zanzara ha tentato di assalirmi. L'ho letto già la volta scorsa, però è questo, ve lo siete sentiti due volte perché ho sbagliato. Succede. E intanto passiamo all'aula B, dove parte alle ore 18 sempre spazio di comunicazione no like. Se la vicenda di Cambridge Analytica ha portato al grande pubblico, compresi gli arborigeni coi quali cerchiamo da sempre di dialogare e di dirci qualcosa, la questione del potere sui cosiddetti social network. No, però la frase non è in italiano. Se il gruppo Ippolita ha individuato e indicato anche prima di allora le modalità di funzionamento di Facebook nella pornografia emotiva e nella gamificazione. Ah, sono una serie di sei in cascata, ma pensate, se il progetto Facebook Tracking Exposed ha tentato di decostruire il funzionamento dell'algoritmo del social monopolista e suggerisce oggi che ognuno abbia il suo proprio algoritmo, Se Unity Club con la sua voce collettiva frammentata e traumatizzata si domanda: ma se la piazza diventa centro commerciale, che fai? Apri un negozio o gli pianti dentro un casino? Se il gruppo GLEP ricorda il sabotaggio come strumento di critica, se il collettivo Trammenti ricorda che dovremmo ripartire dal concetto di comunità prima della questione tecnica, se la tendenza di oggi è che la tecnica ci salverà, ma vorremmo partire prima dalle persone e siamo qui a domandarci: ma noi cosa vogliamo? Prima di impastarci gioiosamente su identità, delega, autorità, affinità, struttura, responsabilità, non possiamo che elencare la scaletta. Dopo una breve intro cominceremo con il resoconto tecnico di alcune pratiche di utilizzo di social network per arrivare più consapevoli a una desideranda e solo allora si aprirà il dibattito. No, ma perché era scritto in una maniera un po' stramba e quindi era difficile, ma secondo me se lo leggete sul sito di Hackmeeting, mettendo appunto le giuste pause inframmezzate, si capisce senz'altro meglio. E comunque questo era in aula B alle ore 18. Intanto ci abbiamo un buco qua tra le 18 alle 19 in aula C, dopo la presentazione di Stop al Panico, probabilmente verrà tappato da qualcosa, oppure semplicemente il ritardo accumulato dalle tre precedenti farà sì che non vi accorgiate che c'era un buco. E alle 19 dovrebbe iniziare Spunti, strumenti e conseguenze sull'abuso del concetto di identità. L'identità è sempre stato un concetto problematico. Nel mondo delle comunicazioni digitali c'è stata per lungo tempo l'illusione che fosse possibile ignorare o facilmente aggirare le richieste, aspettative e restrizioni vigenti nel mondo fisico. È ancora vero? È ancora possibile? Di quali strumenti ci si può dotare e con quali pratiche si deve venire a patto per aggirare il concetto di identità che ci viene richiesto di rispettare sempre più di frequente anche online? Non pretendo di fare qualcosa di completo didattico, tantomeno di utilizzabile nel mondo vero. Però è un po' che sperimento tecniche, neanche tanto sofisticate, di camuffamento della propria identità online. Vorrei affrontare le motivazioni che portano a questa necessità, gli obiettivi che uno si può dare in questo tentativo, le possibili conseguenze derivate dall'utilizzo di un'identità non canonica, gli strumenti esistenti che possono facilitarci in questo percorso. E questo era alle ore 19 in aula C e guarda caso siamo arrivati a cena e prima di cena ci ascoltiamo, per favorire aprirvi lo stomaco, un altro pochino di John Zorn, sperando che l'album che sto facendo andare non sia già finito. No, non lo è, meno male. E poi torniamo e vi spiegherò un'altra zanzara tentato di uccidere. Bastarda. Maledette zanzare. Vi illustrerò cosa avviene sabato sera. Per ora in realtà abbastanza poco, quindi probabilmente sabato sera andrà riempiendosi nei prossimi giorni, oppure vi bevete una birra, state lì, cioè sono già 2 giorni che siete lì, basta, che quanti seminari volete, andate a dormire, che volete. Su questo bel jazzettino ci andiamo ad avviare verso il sabato sera. C'è stata infatti la cena anche questo per il sabato molto puntuale alle ore 20 con termine precisissimo alle ore 21:30. Alle 21:30, per ora in aula C, non so perché è stato messo laggiù, visto che tutto il resto è rimasto attualmente vuoto, comunque magari poi viene spostato, non lo so. C'è analisi di un sistema di licensing, ovvero come legare una bicicletta a un traliccio della luce usando un filo d'erba. Grosso modo farei vedere com'è possibile, usando tecniche da pover'uomo, analizzare un sistema di licensing di un ipotetico software, ponendo l'accento su quanto spesso questi siano mal ingegnerizzati e basti quindi poco per divertircisi. E questo è quanto. Abbiamo velocemente terminato il sabato sera, se non che, appunto, probabilmente ci sarà più roba aggiunta all'ultimo, ma una cosa fissata che ci sarà di sicuro sono i 10 minutes, cioè i seminarietti di 10 minuti. Prima ve l'ho spiegato io alla buona, ma c'è anche una descrizione di che cosa sono cos'è il 10 minutes speech corner. Ora ve la leggo dal sito di Hack Meeting. 10 minuti o poco più per raccontare qualcosa di interessante. È bello se scrivi in lista quale sarà l'oggetto del tuo intervento e giorno per regolarsi meglio, bla bla bla bla bla. Ci sarà un moderatore che si incaricherà di gestire la questione tempo ed eventuali domande e cacciarti in malo modo se ti riveli una persona più logorroica del necessario. Quindi da questo breve abstract di come si svolgono i 10 minutes avete più o meno capito. E con questo si conclude il sabato sera. Queste sono le cose in programma per Hack Meeting 2018 presso il Centro Sociale Buridda di Genova il 6, 7, 8 luglio. E vi invito comunque a controllare, a guardare il sito se siete molto interessati a sapere cosa c'è, perché normalmente si aggiungono cose anche all'ultimo. E questo conclude anche la nostra carrellata sull'Hack Meeting 2018, che era anche l'unico argomento di questa puntata di Coccoli al Silicio, visto che già a leggervelo tutto ci ho messo quasi un'ora. Di conseguenza io concluderei salutandovi per questa sera. Torno ora alle mie attività più autistiche. Stiamo infatti qui cercando di stampare un PCB con il ferro da stiro, ma non siamo pazzi, giuro che è un metodo vero per stampare circuiti, cioè per produrre circuiti stampati. C'è un metodo che si chiama press and peel e prevede di usare appunto un ferro da stiro da usare come per i trasferelli, quelli che della maglietta, quelli che si cosavano sulle magliette passandoci sopra il ferro da stiro, noi uguale ma sulla piastra di rame, e poi lo immergiamo in una soluzione acida nella quale esso rame si scioglie, e se hai fatto tutto a modino ti rimane il tuo bel circuito stampato. Fortissimo, eh? Era per farvi vedere che non solo c'è la trasmissione, ma c'è anche live hacking, come qua fanno anche il live music ogni tanto, quelli di 8 Hz. Questa sera noi si fa la live hacking tutta vita. E vi lascio così al vostro tedioso lunedì sera, perché vi abbandono dai microfoni di Radio Wombat, quindi non vi faccio più di divertire e sganassare dalle risate. E ci risentiamo probabilmente non il prossimo lunedì, perché secondo me sono di nuovo in giro, non la fo la trasmissione, ma quello dopo di sicuro, così vi racconto poi cos'è stato veramente in questo Hack Meeting, se vi ho letto solo fuffa oppure se in vero è stata un'esperienza unica e ripetibile come vi sto promettendo da circa 2 settimane. E buonanotte a tutte e a tutti, vi lascio ancora un pochino di Gianzorne e poi la nostra consueta bobina con le repliche e la musichina del Wombat. Ciao.